Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. 1996, era la prima stagione di Porta a Porta. Se non le dispiace, torniamo al 18 dicembre, esattamente 16 anni fa. 18 dicembre 1996. Quindi se si rottama tutte e due, sì. Quanto teme, non per il proprio governo, lei l'ha già detto prima, pensa di stare temporaneamente, quindi quanto teme che ci sia il seme dell'antipopulismo antieuropeo in Italia, del populismo antieuropeo? C'è un seme di populismo in Italia come negli altri paesi. Ho attraversato lo stretto a nuoto, ma io mentre nuotavo io dicevo: ma cosa sto facendo? Perché sono qua? Ero in crisi d'identità, come in crisi d'identità la Sicilia. Chi siete? Una nazione? Faccio una regione, immediatamente una premessa, perché poi non mi si dica: ah, dimmi come la pensi. Siamo in par condicio. Mi asterrò rigidamente in questa trasmissione di fare considerazioni di tipo politico. Perché? Perché queste vanno fatte negli spazi preposti, nelle proporzioni che appunto stabilisce la legge. Però questa mattina invito gli ascoltatori, che penso che numerosissimi avranno guardato il grande match di ieri sera, di esprimere la loro su questo tema. La politica sta cambiando, è indubbio, ma di questo ne parleranno gli osservatori politici, colleghi che di questo si occupano. La televisione sta cambiando, nel senso che è già cambiata, è un cadavere putrefatto che ormai, passata l'ultima fase, quella dello squagliamento, lascia ormai le proprie misere spoglie alla mercé di chiunque. La rete sta entrando prepotentemente nel dibattito e nella connessione fra cittadini e politici. Ma i politici sono preparati a questo cambiamento? La televisione è preparata a questo cambiamento? La rete è il luogo ideale, è il luogo più proficuo dove si possa svolgere quel sano, intelligente e costruttivo dibattito tra cittadini e politici che dovrebbero rappresentarli? Questa è la domanda di oggi. 800240024. Partiamo dal grande evento di ieri. Ma perché parliamo di questo argomento? Perché ieri è accaduto qualcosa che qualcuno si aspetta da decenni. Anch'io da decenni parlo di televisione, da decenni seguo la televisione nei momenti di massima attenzione politica, e ieri aspettavo qualcosa che aveva l'idea di battaglia epocale. Era Silvio Berlusconi in diretta, in prima serata, da Michele Santoro, i grandi avversari di sempre, Santoro e Travaglio contro Berlusconi, o perlomeno Santoro e Travaglio e tutto il loro apparato, che davano a Berlusconi la possibilità di esprimersi in prima serata. Come viene riassunta la serata di ieri? Ve lo dico da due titoli di due giornali fortemente antitetici, che in realtà danno la spiegazione esatta di quello che è accaduto. Per Il Giornale, sgominato il clan Santoro. Per Il Fatto Quotidiano, Berlusconi diffama Travaglio e scatena la rissa. Sì, sì, perché non facciamo a tempo a scrivere 10 pagine? Lei ne combina 350. Mi prenoto per sostituirlo. Vengo dopo al tavolo e alla sedia, perché ho anch'io una letterina a Marco Travaglio. Oh, fantastico. Ah, c'è la lettera a Travaglio. Beh, questo risparmiamo, è un risparmiamo sul costo dei francobolli, no? No, no, bene, bene, bene, bene, bene, bene. È stata una serata che, io vi dico come l'ho seguita in diretta su Twitter, perché trovo la forma più divertente per passare una serata in divanato che stare davanti al televisore con il tablet in mano, seguire un programma televisivo di cui fondamentalmente, visceralmente, non me ne importa molto, se non dal punto di vista di estetica televisiva, e confrontarmi con altre migliaia di persone che lo seguono come si segue una partita, come si guarda dal buco della chiave uno spettacolo salace. Qual è stata la mia prima impressione? Era quella di assistere a una finalissima di Miss Italia. Le tre miss abbracciate stanno lì a aspettare chi ha il verdetto, però con una sorta di uscita dal tempo e uscita dalla dimensione consueta della televisione. In realtà è come se il patron Mirigliani fosse fra le tre miss, anche lui lì a aspettare chi vincesse, e le altre due miss stanno tutte lì. Ma chi ha vinto alla fine? Beh, lo direte voi chi ha vinto dal punto di vista televisivo. Chi ha vinto dal punto di vista degli ascolti, ve lo diciamo subito. Quindi abbiamo i dati di ascolto della serata, perché anche l'analisi quantitativa è importante per una valutazione generale del cambiamento del rapporto tra politica, televisione e rete, perché ce li dice immediatamente Andrea Amato. Andrea Amato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca. Andrea Amato è direttore responsabile del sito tvzoom.it, che è un sito che si occupa di televisione, di analisi della televisione, di critica della televisione. Ma in questo momento ci sai dire esattamente com'è andata la serata ieri, così capiamo anche se gli italiani sono stati come me sul divano? Allora, la puntata di Servizio Pubblico con Silvio Berlusconi ospite ha registrato un record assoluto, non solo per la 7, ma in assoluto per la televisione in questo periodo, ovvero 33,59% la media di share del programma, con 8,6 milioni di telespettatori. Che per la 7, è, che ne so, nemmeno Capodanno, una cosa incredibile. La media di rete è il 3,5 di share, per farti capire esatto di cosa stiamo parlando. Il Servizio Pubblico però ha una media a puntata del 12%, quindi triplica, anzi quadruplica la media di rete, ma ieri è andato quindi, scusami, oltre. La media di Santoro qual è? Più o meno. Il 12% di solito. Quindi è stato il Viagra di Santoro Berlusconi ieri? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il picco appunto alle 22:20 con l'arrivo di Berlusconi in studio, poi da lì è andato calando. Quindi anche con l'interesse telespettatori. Io non so ancora, perché non ci siamo sentiti, quali sono gli ascolti. Io ti dico la mia impressione generale e aspetto dal pubblico anche la sua impressione. L'idea è stata all'inizio che questa era una serata che sembrava impossibile, improponibile, ci saranno state negoziazioni dietro che poi sono state anche confermate. Mi sembrava quei match che si vede nei vecchi film americani anni 50, in cui c'è un vecchio pugile che fa l'ultimo grande incontro alla sua vita pensando di tornare finalmente sul ring, ma sa soltanto all'ultimo momento che l'incontro è stato truccato e quindi lui deve rimanere in piedi comunque per 5-6 round e quindi deve resistere. Mi sembra che all'inizio l'idea fosse quella di non colpire troppo forte perché rimanesse in piedi il più possibile. Ti ricordi, c'era le scommesse, se ne andrà, non se ne andrà. Certo. Alla fine è rimasto fino alla fine. È rimasto fino alla fine. Ti do un altro dato interessante da incrociare, ovvero su Rai 1 in seconda serata da Bruno Vespa Porta a Porta c'era Bersani e il sorpasso di Porta a Porta con il Servizio Pubblico è arrivato alle 23:20, ovvero nel momento esatto in cui Berlusconi stava litigando con Santoro e Travaglio nella sua lettera a Travaglio. Quindi un momento diciamo televisivamente più caldo c'è stato il sorpasso di Vespa con Bersani, che come sappiamo non è uno che buca proprio il teleschermo di solito, però invece allora c'aveva ragione Santoro. Adesso facciamo sentire il punto. In quel punto io ho scritto su Twitter che Santoro ha detto a Berlusconi: sta rovinando lei una grande trasmissione in questo momento facendo questa cosa. Io ho scritto su Twitter: ma che sta rovinando? Sarà il momento del picco d'ascolto. Invece, come ci dice appunto Andrea Amato, è stato il momento del sorpasso da parte di Vespa, che era sempre la stessa formula, non aveva cambiato nulla, con Bersani. Sentiamo. Basta, su Twitter la stavano commentando, mandando stralci della famosa lettera di Totò Peppino alla mala femmina. La lettera che scrivono i fratelli Cappone per spiegare alla mala femmina che in realtà sono disposti a pagare purché lei lasci il nipote che deve studiare e dare gli esami. Berlusconi aveva un asso nella manica, si era fatto scrivere una letterina con tutte quelle secondo lui che erano le malefatte di Travaglio, per cui oggi il Fatto Quotidiano, difendendo il suo vice direttore, dice diffama Travaglio. E sì, vi spiego qual era la topografia dello studio, perché è importante. C'è la scrivania. La scrivania è il luogo eccelso dove si siede la persona più autorevole e più importante. Sulla scrivania era seduto Travaglio, che leggeva la sua lista di accuse, di circostanze che dovevano mettere in difficoltà Berlusconi, perché era venuto il momento in cui il vecchio pugile doveva andare a terra e quindi c'erano stati i round sufficienti, doveva cadere. Poi lui fa una sorta di gioco improvviso, fa alzare Travaglio, si siede nella stessa scrivania, quindi lui diventa il professore, gli altri due i ragazzini che seguono, e comincia a leggere la sua lettera, che non aveva in sé, non era influente cosa dicesse veramente, ma questo fa sclerare totalmente Santoro e accade quello che finalmente deve accadere. C'è un momento particolare in cui Santoro dice quella che era la chiave di lettura di tutta la trasmissione. Ha preso parecchi voti così, no? Le vince di sicuro le non elezioni. Sapete nemmeno scherzare. No, ma che è uno scherzo questo? È uno scherzo? No, 10 condanne per diffamazioni. A parte il fatto che lei non sta rispettando le regole che ci siamo dati. Quali? Quindi le persone che hanno concordato per lei queste regole, che regole? Di non entrare nel merito dei processi. Ah, perché lui non è entrato? No, perché lei lo può fare. Ah, non ha fatto sì, un elenco no. Di processi sì, su ognuno dei quali lui dovrebbe dire se lei ha Alessandro Lanni, buongiorno. Buongiorno. Alessandro Lanni è un giornalista, docente di giornalismo politico alla Sapienza, autore di Avanti Popoli, Piazze TV Web, Dove va l'Italia senza partiti, Marsilio Edizioni. È normale secondo te, Alessandro, che esca fuori pubblicamente, platealmente, che il fatto ci fossero state delle regole stabilite, che gli uomini di Berlusconi avessero concordato in qualche maniera i paletti, oltre quelli della Gcom e della par condicio, perché lui partecipasse a quella trasmissione? Beh, io credo che questo non sia particolarmente sorprendente, voglio dire, se pensiamo ai dibattiti in televisione tra Obama e Romney, se pensiamo a come sono andati i dibattiti su Sky... Ma non a servizio pubblico però, uno si aspetta che lì è un'altra cosa. Sì, sì, certo, però il fatto che ci si accordi su un recinto nel quale gestire, anche rendere gestibile la trasmissione, penso che non sia scandaloso. È meno piacevole sentirli tirar fuori poi e rinfacciarseli, ecco. Io credo che tutto sommato... È come dire, stava... prendo il pallone e me ne vado, non gioco più. Sì, sì, l'ho scritto anch'io ieri su Twitter questa cosa. L'abbiamo pensato tutti. Sì. Io credo che più che altro si sia vista benissimo la scrittura ieri sera della sceneggiatura. Il fatto che hai raccontato adesso della scrivania, del cambiare posto, era tutto scritto ovviamente, non era improvvisata la cosa, no? Il fatto che... Senti, anche... la pulizia, perché il momento che ha fatto veramente sclerare Santoro è quando si è alzato Travaglio dalla sedia e Berlusconi doveva sedersi nella sedia di Travaglio, ha fatto un gesto davvero teatrante, ha pulito la sedia con il fazzoletto come se non volesse contaminare il suo illustre sedere con il sedere di Travaglio, questo era il senso probabilmente. Sì, ricordava un po' quello che ha fatto anni fa Borghezio sui treni Torino-Milano che portavano le prostitute nigeriane, no? Era andato lì a disinfettarli le poltrone dei treni. Ecco, sicuramente anche quella era una cosa pensata, ecco, non è che uno si alza e fa... Quindi secondo te c'era un copione in cui c'era scritto si alza Travaglio, Berlusconi pulisce la sedia e il pubblico batte le mani, così era secondo te? Non so se è proprio questo, sicuramente lo scambio dei posti, la scrivania... la lettera lunga da interrompere, credo che fossero tutte cose se non esplicitate nella scrittura del programma. Allora, fermiamoci un attimo. Vincenzo Cosenza, buongiorno. C'è Cosenza? Buongiorno. Allora, Vincenzo Cosenza è responsabile di blogmeter.it, che è un servizio di ascolto dei social media che misura e valuta mensilmente la presenza di aziende, brand, personaggi pubblici, quindi anche politici, nei social media, su Facebook, Twitter e via dicendo. Quello che ci ha detto adesso Lanni ci fa pensare che in realtà, vista così, potrebbe sembrare una grande fiction televisiva, vecchio mezzo di ammaestramento di massa, fatta apposta per far divertire noi vecchi digitali acquisiti a commentare le varie PS su Twitter, come se fosse una sorta di sceneggiato serale che tutti vedevamo con un copione divertente e noi lo commentavamo. Che è accaduto su Twitter invece ieri sera? Beh, in effetti è accaduto un po' questo, nel senso che molte persone su Twitter, più di 33.000 secondo le nostre analisi, si sono ritrovate davanti a Twitter in una sorta di unione comune, in una visione comune di Santoro, e hanno prodotto oltre 116.000 tweet durante quelle due ore, con un picco massimo che si è avuto proprio durante la sceneggiata di cui parlavamo, la letterina. Il clou è stato. Esatto, è stato proprio il clou anche di commenti degli utenti italiani. Quindi sicuramente una visione connessa per cui, come dire, per la prima volta da un po' di mesi a questa parte si registra che gli italiani assistono alla TV in maniera collettiva, uniti davanti al focolare Twitter, se così possiamo dire. Allora scusa Vincenzo, tu stai confermando quella che è un'impressione di apertura che ho avuto io. Ci dice Amato di TV Zoom, che ha dato i dati di ascolto, che in realtà il momento che ci sembrava televisivamente più forte è stato il momento in cui le persone sono andate a guardarsi Vespa con Bersani. Ci dici te che in realtà il pubblico più nuovo, più attivo, più intelligente, che più ha radicata la propria coscienza nella contemporaneità, in quel momento invece si è divertito come un matto, ha twittato. Quindi questo mi farebbe pensare che la vecchia antica televisione ormai è al suo tramonto nelle sue liturgie consuete con la politica e sta accadendo qualcosa di nuovo. Sentiamo gli ascoltatori. Laura. Sì, buongiorno Gianluca, io sono perfettamente d'accordo perché ormai la politica vive soltanto se è spettacolarizzata. Ieri sera mi è sembrato di assistere a uno spettacolo tra comici con una serie di battute e controbattute che cioè veramente c'era da divertirsi. Tu stavi twittando però, anche oltre guardare? No, perché non ero collegata. Perché il vero divertimento era quello, guardarlo collettivamente. Ma infatti penso che quello che succede al di fuori della televisione secondo me è più interessante. Però è triste perché cioè, c'è uno scollamento mai psicotico. Cioè, io dico, quel gesto lì io Berlusconi lo facevo quando andavo alle elementari. Cioè, mi è sembrato veramente un bambino. Ti rendi conto, ne stiamo parlando adesso. Evidentemente la televisione è fatta per bambini, ha linguaggi e codici che vanno bene per i bambini. Il pubblico della televisione continua a essere considerato un pubblico da bambini. Cosa ne pensi, Lanni, di questo? L'escamotage, il colpo di teatro che ancora funziona e diventa materia viva il giorno dopo per commentare. Diciamo che io ho l'impressione che, e questo si rivede anche con Grillo, cioè l'uso del mezzo televisivo adesso è quello lì, cioè far parlare gli altri mezzi di te. Io credo che quando si parla di chi ha vinto ieri, no? Tutti a dire ha vinto Berlusconi, verissimo, è andato molto bene, insomma. Però Santoro ha triplicato quasi i suoi ascolti. Quindi ha portato a casa comunque. Non possiamo dire che è un vincitore, quello è un conduttore di una trasmissione televisiva che è andata molto bene, vuol dire anche dal punto di vista cinicamente commerciale è un gran successo. È andata strabene da quel punto di vista. Quindi voglio dire, i vincitori sono entrambi, non dimentichiamocela questa cosa, perché poi si rischia di confondere i piani, il piano televisivo e il piano politico, ecco. Però sai quello che stai dicendo mi fa riflettere, se i vincitori sono entrambi, se hanno vinto tutti, se ha vinto Berlusconi perché probabilmente è ritornato a essere simpatico, la gente si è accorta che ancora è vivace, ha fatto le battute, ha tenuto testa anche alle due ragazzine che facevano le domandine scritte, le brave maestrine dalla penna rossa, e poi sono scomparse, oggi qualcuno dice le donne non hanno avuto spazio, dicendo. Insomma è andato, come si suol dire, in testa a tutti, ma ha vinto Santoro televisivamente perché ha fatto una grande trasmissione con grandi ascolti, quindi non è più un dato oggettivo di vittoria il dato televisivo, è uno spettacolo e vince chi porta a casa comunque il suo bottino, si può vincere anche tutti e due se si è uno contro l'altro. Io dico di sì e trovo che da un certo punto di vista sia anche sano questo, nel senso che si svincola per certi versi lo strumento dal significato politico che questo deve avere. Si fa televisione, un po' cinicamente si cerca in un mercato come quello italiano di alzare l'audience e lo share, e funziona, e questo funziona, però bisogna dirlo, cioè bisogna dire che quella è televisione, non è politica, non si è fatto un gran giornalismo ieri sera, ecco, diciamolo. Però è la prima volta che lo diciamo veramente di fronte a questi mostri sacri dell'informazione televisiva. La televisione, amici miei, è una grande vecchia puttana che va pagata nella maniera giusta perché dia i suoi risultati. Giuseppe. Buongiorno Nicoletti. Lei mi ha anticipato il tutto per quanto riguardava la sedia, però mi dà 20 secondi. Lo dica ampiamente. È il sigillo tombale, è una ceralacca bollente quello che ha fatto ieri sera. Avrà perso sì e no, non dico nulla. Infatti non dice nulla, è morto. Si è auto, io giuro non ho toccato e non l'ho segato, era tanta l'emozione di parlare che è caduto. Torniamo un attimo velocemente sui dati d'ascolto perché mi interessano anche quelli, poi in tutta il seguire della trasmissione dopo l'informazione della borsa vorrei sentire gli ascoltatori come avete passato quella serata, come passerete le serate future, come avete passato finora le serate in cui la televisione in qualche maniera con tutti i suoi limiti è il mezzo più potente per far capire o per dare possibilità ai politici di farci di spiegarci quello che ci offrono in cambio del nostro voto. Andrea Amato, tivozone.it. Ritorniamo sui dati d'ascolto, facciamo intanto un'analisi complessiva di quello che è accaduto in questi ultimi giorni e ritorniamo sulla serata di ieri. Esatto, allora un altro dato interessante è vedere l'ospitata di Berlusconi sempre da Vespa il giorno prima, che rispetto a Bersani ha guadagnato 500.000 di persone, ovvero aveva una media del 23-10% con 2-4 milioni di telespettatori, quindi comunque sia Berlusconi inevitabilmente tira più dei suoi contendenti in televisione. Conosce bene il mezzo, sa come usarlo. Esatto. E poi è l'unico che fa questi giochetti fuori dalle regole che piacciono tanto al pubblico abbastanza infantile della televisione generalista. Sei d'accordo? Esatto. Esattamente, assolutamente. Un dato invece di un mese fa, che era molto, che è molto interessante, è il faccia a faccia tra Bersani e Matteo Renzi a Rai 1 con la Monica Maggioni il 29 novembre, dove per la prima volta il linguaggio, la grammatica della, della televisione, cioè della politica in televisione all'americana, in confronto all'americana con il timer, il pulpito, per la prima volta l'abbiamo visto durante le primarie anche in Italia, aveva raggiunto il 22,85% di share con 6 milioni e mezzo di persone, quindi non molto distante dai numeri di Vespa e neanche così distante da quelli di Servizio Pubblico. Che però c'era stato su Sky quella fantastica serata 5 con, esatto. che era una cosa irraggiungibile dal punto di vista della novità del televisiva. E aveva raggiunto quella puntata lì a cui ti riferisci tu, il 6,2%, che per Sky TG24 in abbinata in chiaro su cielo è un numero incredibile, considerando che il numero di abbonati di Sky è intorno ai 5 milioni e mezzo, quindi una piccola fetta di Italia che però era tutta sintonizzata in quel momento su questa nuova formula di talk show politico. Ero anche quello. Allora, diciamo così, che comunque io fino ai due terzi di questa trasmissione mi sono divertito. Anch'io. Mi sembrava io una mi cosa sto divertendo anche molto adesso, civile. Vedendo come no, difficoltà no, lei. No, ecco. E qui in questo lei pensa di essere un genio del male, invece questi qui sono no, piccoli. No, questo lo pensa Travaglio. L'ultima cosa. Mia madre mi ha dettato. Queste ultime cose sono dei trucchetti sulla, da scribacchino. Sulla mia pietra non tombale. Degni di lei, fu un uomo buono e giusto e corrisponde all'immagine che io ho di me. Ecco. Un uomo buono e giusto. Ma non è importante l'immagine che noi abbiamo di sì. noi stessi. Scusi. Conta pure quello che pensano io gli sono altri, stato no? votato per tutte le volte che sono passato da 11-13 milioni di italiani. Tutti ma coglioni? Io, ma su questo assolutamente. No, no, no, no. No, lo dico ringrazio io, no. La collega Betta Fiorito che ha tagliato per me tutti questi pezzettini, che cioè l'ha tagliati per i suoi servizi, me l'ha prestati questa mattina, compreso il taglio sul fantomatico pezzo dei 12 milioni di coglioni, che era un pezzo fondamentale che poi tutti hanno applaudito, battuto le mani, facendo un'azione politicamente scorrettissima. Mi scrive su Twitter in questo momento Achille Corea e dice: ricordate bei tempi in cui il web e il paese reale guardavano programmi diversi? Cosa ne pensa Vincenzo Cosenza, responsabile blogmeter.it, che è appunto il blog dove danno tutte le analisi di quello che accade in rete rispetto ai grandi eventi? Sei d'accordo? Dire è un po' strano però che il popolo della rete, gli indivanados della rete, guardino gli stessi programmi della TV generalista e su questo si esaltino. No, no, è verissimo quello che dice Achille, da almeno 3-4 mesi a questa parte quello che si sta assistendo è proprio una convergenza per cui non si può parlare più di una rete che ha delle abitudini e delle opinioni e anche dei gusti diversi da quelle del una rete antagonista non esiste più. Assolutamente non esiste più, con buona pace di tutti gli articoli di giornale che ne hanno parlato e ancora ne parlano, ma c'è una convergenza, insomma le persone ormai utilizzano la rete come l'aria, utilizzano gli strumenti della rete per commentare, per fare una cosa che facevano prima in solitaria sul proprio divano o con i propri amici seduti sul divano, ora si connettono ad una audience più ampia e lo fanno. Sì, vuol dire tu stai osservando con i tuoi strumenti che in questo momento, io mi viene da pensare, una domanda che mi sto facendo in questi giorni, la GCOM ha dato delle regole molto precise per la giusta equa spartizione degli spazi televisivi degli uomini politici, ma gli uomini politici ancora non hanno capito che in realtà potrebbero andare oltre. Metti se per assurdo ieri mentre parlava con Santoro qualcun altro potesse su Twitter dare dei messaggi diversi, o in un faccia a faccia ci sarà presto di due politici, mentre uno parla il suo avversario scrive su Twitter gli stanno puzzando i piedi o qualcosa del genere, come si fa a controllare questa uscita dal tempo lineare e orizzontale della televisione? Sì, assolutamente vero, non si riesce a controllare, mi pare che l'Agicom non ci abbia pensato, ma i politici ma anche i media potrebbero organizzare dei dibattiti web, solamente basati sul web, o comunque i politici potrebbero sicuramente avvantaggiarsi di questi strumenti per parlare direttamente ai propri pubblici di riferimento. Anche l'esperimento di Monti, il Twitter Time di Monti, è se vogliamo un esperimento rudimentale per connettersi con una propria audience e parlare al di là di quelle che potrebbero essere delle regole fissate in campagna elettorale. Un po', diciamolo senza offesa, un po' da Umarell, perché twittare con 10 persone intorno, con il Mac in prima fila, in primo piano, tutti che indicano ogni tweet, tutti a seguirlo, è ancora, diciamo, una via intermedia. Si gioca con una cosa che si pensa che sia il giocattolo dei ragazzi, perché anche i ragazzi hanno il loro peso. Alessandro Lanni, docente giornalismo politico alla Sapienza, come sta cambiando anche la possibilità di dare delle regole e di mettere col bilancino la partecipazione della pubblica della politica? Io ho detto, non vorrei dare suggerimenti malevoli, ma metti in un faccia a faccia il più sveglio dei due, a un certo punto comincia a twittare, tutta l'attenzione andrebbe sul tweet. Questo capita già, in verità è capitato, ci sono politici che l'hanno fatto già in varie trasmissioni televisive, lo fanno. Renzi fu bacchettato, ti ricordi, c'aveva il cellulare, lo smartphone in mano durante il confronto per le primarie del PD. Ricordo anche quanto colpì Angelino Alfano, che andava con l'iPad in trasmissione, se non sbaglio, a Balarò. Per farlo vedere bene, perché uno smartphone non si vedeva se no. E gli stessi conduttori televisivi, ce ne sono alcuni, che durante le pause pubblicitarie twittano dalla conduzione. Sicuramente il dentro fuori, tutte le riunioni a porte chiuse in questo nuovo panorama dei media sono da riscrivere le regole. E secondo te potranno essere regolamentate? Un domani, metti che ci ascolta qualche signore della Gcom, dirà: ma come, non ci abbiamo pensato, dobbiamo dare la regola, non si possono fare più di 3 tweet mai in contemporanea mentre parla l'avversario. Si può regolamentare questo? Io credo che questo genere di regolamentazioni arrivino sempre un po' troppo tardi, esisterà sempre qualcosa che li scavalca, l'onda ormai è di un certo tipo. Sicuramente io credo che invece starà nella capacità di tutti quanti gli attori sulla scena di gestire in maniera responsabile questi strumenti, appunto ci sono certe cose che ha un senso fare, altre molto meno. Mi scrive su Twitter Elio Pacilio, dice: Nicoletti, la trasmissione è interessante, ma perché secondo te chi twitta è più intelligente di chi non lo fa? Non è più intelligente, vive il suo tempo appieno, ha una chance in più, muove e confronta la propria opinione in maniera più decisa rispetto a chi guarda soltanto la televisione. Non detto sia un bene o una prova di intelligenza, è vivere intensamente la propria epoca. Roberto. Sì, grazie. Avevo dei commenti a proposito di come è funzionata la trasmissione di ieri. Allora, tanto per cominciare, secondo me Santoro ha sbagliato ad incavolarsi verso la fine della lettura. Non doveva sclerare, non doveva sclerare, quello sì. No, non doveva sclerare, perché effettivamente addirittura, non so se ha notato, quando si sono alzati in piedi entrambi e si sono messi a litigare in piedi. Stanno per fare a botte quasi, le do la mano, esatto, non gliela do. Esatto, mi hanno ricordato, non un talk show, mi hanno ricordato una di quelle scene che si vedono, non so, nel traffico di una città. Però lo speravamo tutti, che un pochino, qualche spintona ci fosse, sarebbe stato bello. Può darsi, io appartengo a quella minoranza, credo, che ieri ha visto la trasmissione non per divertirsi, ma perché sperava che Santoro, con la sua intelligenza, avesse la possibilità di, come posso dire, di decodificare la logica e, se vogliamo, anche la demagogia di Berlusconi. Allora, visto, lei questa mattina, mi scusi, lei mi dà una grande occasione. Io sono visceralmente un cazzone, l'ho guardata per divertirmi. Lei però mi può dare degli elementi di riflessione che magari io non ho colto. In cosa si è sbagliato? Allora, si confida ancora nella televisione come un mezzo così centrale? Non lo è più. La televisione vince chi conosce meglio il giochetto per portarsela a letto. Il lessico televisivo è cambiato perché ci sono le persone che twittano. Qual è la risposta, secondo lei? Ma secondo me, allora, la tattica evidente di Berlusconi è quella della personalizzazione della propria presenza, cioè sia in termini di responsabilità che di successo personale. Per cui la tattica più corretta per noi poveri cittadini che dobbiamo capire e scegliere chi deve votare è quella di cercare invece di spersonalizzare, per cui di entrare nel merito delle cose. La questione della Bundesbank, Deutsche Bank, eccetera, che non gliene è potuto fregare di meno a nessuno, perché era l'Anna Caprina, no? le due ragazze bravine, bravine, corrette, sono tutte preparate con i dispacci delle banche che smentivano, una cosa molto interessante per un pubblico ben attrezzato, ma mediamente per noi poveri osservatori di spettacolo circense, proprio, diciamo, quando vanno avanti, quando comincia a vedersi il sangue. Esatto, però c'è da dire, c'è stato un elemento, un'opportunità formidabile che da nessuna parte ho visto sviluppare. Berlusconi la mena moltissimo sul discorso della governance, cioè dell'impossibilità che tu come Presidente del Consiglio hai effettivamente di governare, in quanto l'impianto della Costituzione, come lui ha giustamente ricordato, sì, sì. Però scusi, questa cosa già gliela demolita Vespa la sera prima. Vespa è stato bravissimo, dice aspetti, non va avanti, glielo dico io, e ha ripetuto. No, ma non è questo il punto, non è tanto questo il punto. Il punto è, se tu pensi che la governance non sia praticabile, non ti permetta di fare le tue cose, allora la domanda è, ma com'è possibile che tu per così tanti anni abbia comunque impersonato questo ruolo e abbia creduto, e non puoi farci credere, un conto se uno ci prova una volta. Si può vedere, lei adesso sta facendo un discorso che entriamo nella sfera di un'analisi seria e concreta della politica, ma la televisione... Vorrei abbassare... No, lei sta facendo un ottimo lavoro, però noi stiamo parlando di qualcosa che ormai non ammette più questo livello di complessità e di approfondimento. Andrea Amato, tvzoom.it, vediamo dal punto di vista sempre delle tue analisi, degli ascolti, se ho ragione io o se in realtà il corretto ascoltatore dice dalla televisione noi ci aspettiamo anche un'analisi più seria. Ancora spazio a TV seria che approfondisce gli elementi di analisi, o ormai deve essere un grande circo e allora vince il giocoliere più abile? No, in realtà, come dicevo prima, il pubblico che ha molta più offerta rispetto a prima con il satellite, con le mini generaliste sul digitale, adesso ha un gusto molto più raffinato e quindi pretende un valore maggiore. Una cosa che abbiamo notato noi ieri sera durante il live di Santoro è che tutti chiedevano il fact checking, ovvero il controllo dei dati enunciati durante le trasmissioni dei tempi politici verificati in tempo reale da degli esperti. È una cosa che in America è in uso da tantissimi anni e che ha adottato per la prima volta appunto Sky TG24 per le primarie con l'aiuto dell'Università di Tor Vergata. Quindi non funziona più la cazzata sparata così, 100 esatto. Milioni di posti di lavoro, 1 miliardo di... non funziona più. Esatto, non funziona più. Quindi tutti ieri chiedevano, perlomeno i nostri lettori, ma perché invece di sentire dei dati che nessuno di noi conosce, perché non c'è il fact checking ormai d'obbligo all'interno dei talk show e delle tribune elettorali? E poi fermo un attimo, adesso. Se ci fosse così, sarebbe una trasmissione seria, sarebbe il perfetto programma televisivo per l'ascoltatore che ci ha appena chiamato, un ascoltatore attento, cosciente, informato, che vuole degli strumenti di giudizio e di analisi. Ma vuole veramente questo il pubblico della televisione? Beh, per farti un esempio di ascolti, Ballarò con il governo Monti, che tutti dicevano ecco adesso è arrivato Monti, sono arrivati i professori, è finita la cacciara televisiva, quindi il divertimento, l'intrattenimento politico in televisione, mentre invece tutti gli altri da Vespa sono crollati, Ballarò con il governo Monti è cresciuto perché aveva cambiato completamente il registro, aveva... E come te lo spieghi? Dammi un'analisi, come lo spieghi? Che tiene? È cresciuto forse, anzi. Forse perché la politica fatta e urlata in una certa maniera ha stancato il pubblico italiano, probabilmente, che è abituato ormai, ha raffinato il proprio gusto. O Ballarò viene considerato un'isola etica da quelli che comunque si vedono in quel punto di vista di riferimento e tutto, quindi sono tutti emigrati, è stata la transumanza verso Ballarò, la gente non ha più guardato le altre trasmissioni, probabilmente Santoro compreso, hanno detto andiamo a Ballarò che almeno abbiamo quello che ci serve, quello che vogliamo. Questa assolutamente potrebbe essere una lettura, sì, assolutamente, però ti ricordi che 14 mesi fa dai comici ai moderatori di talk molto viscerali e molto caldi erano disperati perché senza Berlusconi e senza quel tipo di televisione erano disperati perché come faremo adesso, mentre invece forse c'è il germe di una nuova era della politica. Ieri l'ha detto Berlusconi quando ha detto a Travaglio, io sono il suo core business, l'ha spiegato veramente. Che gli scommettitori inglesi avevano fatto scommettere che io mi sarei alzato, anzi sarei andato via prima, scusi, anzi hanno detto addirittura che quello che avrebbero pagato sarebbe stato commisurato ai minuti nei quali mi sarei stato. Ora abbiamo vinto tutte le scommesse, noi abbiamo scommesso molto sul fatto di stare preso, qui. Non credo, avete preso molto, credo, perché, credo, perché gli scommettitori dicevano che sareste rimasti. È lui che se ne va da me, non sono io che me ne vado da qui. Io non sono mai stato con lei, quindi non c'è problema, non me ne vado da nessuna parte. Rimango. Arrivederci. Faccia pubblicità ascolti. E dopo Mauro, arrivederci, grazie. Andiamo. Arrivederci. Di qua, di là, di qua. Ragazzi, non fatemi infinocchiare. Mentre se ne va, al microfono quasi spento, di spalle, già salutato, ragazzi, non fatevi infinocchiare, riesce a buttare lì l'ultima parola. Però il momento che conferma tutto quello che stiamo dicendo è che Berlusconi svela la file l'arcano. Siccome tutti stavano scommettendo in tutto il mondo, in tutta Europa, sul fatto che lui se ne sarebbe andato, lui ha scommesso su se stesso che sarebbe rimasto e quindi ha anche vinto soldi. Quindi, oltre a guadagnarci l'immagine, a far guadagnare Santoro in ascolto, l'ha detto buoni ascolti, aveva già capito che Santoro avrebbe fatto una grande serata, lui ha anche guadagnato qualche soldino, perché scommettendo su se stesso questo è accaduto. Ieri fece una profezia che sarebbe entrato nel lessico politico la battuta lei ha fatto le scuole serali. È una cosa un po' antica dire le scuole serali, è un termine denigratorio, vuol dire non hai studiato perché devi lavorare, perché sei un disgraziato, un morto di fame, hai impapocchiato le scuole serali, come dire a qualcuno si è laureato in medicina alla scuola radioelettra, che non c'entra nulla, senza denigrare la scuola radioelettra. Beh, vedo oggi un'agenzia in questo momento che gli studenti delle scuole serali sono offesi, hanno detto come? Perché ci consideri degli studenti serie B se dobbiamo fare le scuole serali? Alessandro Lanni, docente giornalismo politico alla Sapienza, cominciamo a tirare qualche somma ma fare anche qualche profezia. Cambierà qualcosa adesso nella tensione televisiva legata alla politica dopo le analisi di questa serata Santoro? Guarda, io credo che innanzitutto ribadisco un po' quello che avevo detto prima e che entra anche con quello che diceva l'ascoltatore. Bisognerebbe, non so se valgano tanto i regolamenti o le cose, bisognerebbe trattare certe trasmissioni televisive come spettacoli. Ieri lo si diceva appunto commentandolo su Twitter. Saltare tutti, il fosso e fare tutti così alla fine. Sì, tutti guardano i giri delle macchine di Formula 1 annoiati, aspettando che cosa? L'incidente. E ieri un po' era andato anche ieri così, si aspettava lo scontro e se n'è accorto lo stesso Santoro quando ha alzato, io credo, consapevolmente il calore della trasmissione. Palese, era improvvisamente alzava velocemente anche il tono della voce, l'aggressività, perché capiva che languiva. Perché Berlusconi stava un po' vincendo su tutti i campi, non si riusciva a arginarlo, ha dovuto creare uno scontro. Anche l'asso nella manica, adesso c'è una persona che ti inchioderà, l'imprenditrice di Vittorio Veneto, che dice esattamente le stesse cose che dice Berlusconi nelle ultime settimane. Ci si è trovato benissimo. Come la spieghi questa? Cos'era? Una combine? Una spia che faceva il doppio gioco? Qual era il motivo? Scusa, che la signora alla fine doveva andare contro, in realtà ha detto le stesse cose. Io ho l'impressione, uno, che non è facile parlare in televisione per chi non la fa, conoscere la grammatica della televisione non è banale, quindi se noi andiamo in televisione probabilmente facciamo una figura come quella che ha fatto la signora Veneta, quindi sicuramente. Un'altra cosa che vorrei dire è che tutti adesso nel dibattito politico si interrogano su quanto peserà questa serata di ieri sera. Ecco, io non credo che sposterà tanti voti, sinceramente, una serata come ieri. Sicuramente lavorerà su quelli che già ci sono da quella parte. Ecco, io non credo che chi avrebbe votato Monti o Casini ieri, oggi cambia idea. Rimane la grande cosa: la televisione non cambia niente, non sposta voti, la televisione si occupa di politica in maniera fantasmagorica per fare ascolti, approfittare come la stagione del Festival di Sanremo, di Miss Italia, delle grandi partite di Nazionale. Luca, buongiorno. Buongiorno, io nel più puro spirito della trasmissione di ieri sera da Castaro, quindi vorrei però smentire l'affermazione del signore che si occupa di televisione. In che senso smentire? Nel senso che non è vero che il picco di, almeno a mio parere, di Vespa è stato nel momento in cui c'è stata la cazzara, perché chiunque conoscessi io era collegato. Ma lei ha sottomano i dati d'ascolto? No. Allora scusi, sono numeri. Adesso fammi una. Lei, secondo lei non è stato il picco. Sentiamo Andrea Amato di TV Zoom. Sono numeri, uno può dire no, non gli voglio dare ascolto, ma i numeri sono quelli, oggettivamente bisogna dare ascolto a quelli. Amato. Sì, non è una mia opinione, anch'io. Ci sembra strano anche a noi, diciamo. Sì, anche per me è stato il momento oggettivamente di televisione più divertente della puntata di ieri, però l'Auditel, poi si può contestare l'Auditel e il metodo di indagine, ma questo abbiamo e a questo dobbiamo attenerci. Può anche essere 23. Che quella sia l'ora del cambio del catetere del pubblico in prima fila, però è così, non esiste. Esatto, non è purtroppo confutabile, cioè non è una mia opinione, vi ho dato il dato nudo e crudo, come dato nudo e crudo squisitamente televisivo. Prima parlavi di effetto Viagra di Santoro, che ha fatto benissimo a tutta la rete, a tutta la 7, sia prima che dopo, perché ha portato 8,5 al 10%, quando la Gruber ha una media del 5. Già D'Alema l'ambiva, gli si era domandato cosa ne pensa, che succederà. D'Alema tutto si vedeva che gli rodeva tantissimo, voleva esserci lui, chiaramente era logico, però già l'idea, c'era tutta l'attesa, tutti gli indivanati erano già pronti con le noccioline e con il tablet con la prolunga pronti davanti alla televisione. E la cosa incredibile è anche Omnibus Notte, che di solito fa l'1-1,2%, ieri è arrivato al 6,7. O gli spettatori di Santoro si erano addormentati, le famiglie campione Auditel che erano sulla 7 si erano addormentate e sono rimaste anche su Omnibus Notte, oppure l'effetto Viagra di Berlusconi da Santoro ieri ha trainato la televisione di Telecom in maniera... Diciamo che è una sostanza vasodilatatrice a rilascio lento, quindi c'è ancora una coda lunga che si poteva sfruttare nella nottata. Marco, sentiamo Marco. Sì, buongiorno. Sì. Io premetto che non ho visto la trasmissione in diretta, l'ho vista in differita perché l'ho registrata, ero fuori. Io volevo entrare nel merito del discorso di chi ha vinto e chi ha perso. Diciamo che ha perso il Berlusconi politico perché non ha proprio fatto il politico. Ha perso il giornalista Santoro perché non ha fatto il giornalista Santoro. Mi sembrava di assistere a quella vecchia trasmissione di Biscardi, del processo del lunedì, in cui c'era Biscardi e Mosca contro Moggi. Però il dato oggettivo è che abbiano vinto in realtà tutti e due. Ma anche Biscardi all'inizio vinceva. Io mi aspettavo una trasmissione... Quindi lei ha una profezia, questo sarà l'inizio della fine della politica in televisione. Sì. Mi aspettavo più che altro un confronto come quel giornalista americano contro Nixon che cercava di incastrarlo. In realtà non è successo, è successo il processo di Biscardi che non mi piaceva, quindi dopo alla fine ho spento e ho detto voglio basta. Ma è interessante che noi diamo uno spettro di tutti i possibili. Se posso aggiungere solo una cosa, Berlusconi mi sembra che abbia vinto addirittura anche su Grillo, perché è stato molto più comico di lui a questo punto. Ma ha detto che Grillo fra un po' tornerà a fare il comico, quindi si riequilibrerà. Però non voglio fare valutazioni politiche, dopo chiamano quelli di Grillo. Stiamo parlando solo della televisione. Vincenzo Cosenza, blogmeter.it. Vediamo che anche quanto questa novità che tu hai registrato anche te con numeri oggettivi potrà continuare a influenzare la televisione. Secondo te ci sarà un ripensamento? Questa televisione che abbiamo detto e definito ormai funziona solo quando è grande spettacolo, questa politica che va in televisione pur sapendo che comunque non muoverà molto quello che è il giudizio dell'ascoltatore, del possibile cittadino che va a votare, quanto la rete in tutto questo può fungere da mediatore, da acceleratore, o in realtà non c'entra assolutamente nulla, nemmeno la rete? Ma guarda, secondo me dal punto di vista del telespettatore attivo, del telespettatore non morto direi, funziona lo spettacolo di quel tipo, il circo di ieri, ma funziona anche uno spettacolo che è funzionale anche a un discorso politico, e questo lo dimostra il fatto che diciamo la trasmissione più twittata di questa stagione è stato il confronto del TG1, che ha avuto oltre 132.000 quello con la Maggioni tweet, quello con la Maggioni, e subito dopo il confronto di Sky TG24, quindi un'arena in cui comunque al centro c'erano dei contenuti e la gente su Twitter twittava anche di contenuti, mentre ieri fondamentalmente ieri era solo di cazzate, diciamo la verità. Assolutamente. Ieri era proprio sugli episodi. Ecco, però allora quindi chi dovesse pensare un prossimo palinsesto o format di tribuna politica dovrebbe pensare anche che esiste questo pubblico che ha una partecipazione attiva, quindi creare o degli elementi comunque manichei di confronto in cui dice bianco e nero, così chi twitta ha modo di dire sto per il bianco, sto per il nero, o grandi elementi di teatro per dare l'elemento di divertimento, di passatempo. Assolutamente sì. Ripeto, i contenuti sono assolutamente ben graditi in rete anche quando si tratta proprio di fare fact checking. Il fact checking funziona anche bene bene se si ascolta anche a quello che in rete si dice, perché diciamo la potenza dei molti riesce ad avere in breve tempo anche la verifica dei fatti. Cosenza chiede una cosa che ancora secondo me fa parte del futuro lontanissimo degli autori televisivi, di cominciare a considerare la rete non soltanto come un gadget ma come un elemento costitutivo di giudizio importante anche per la televisione. Ringrazio Alessandro Lanni, Andrea Amato, Vincenzo Cosenza, ringrazio Santoro Berlusconi per il divertimento di ieri sera e di questa mattina.